Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Quando Sullivan entrò in camera la mattina dopo, gli chiesi notizie della mia cavalla e lui mi informò che stava bene. Allora gli dissi, con tono deciso ma dignitoso, di portarmi l'acqua calda per la barba. «Acqua calda per la barba?» dice lui scoppiando a ridere. E devo ammettere che non aveva tutti i torti. «Siete voi che volete radervi?» continuò. «E se insieme all'acqua vi portassi sulla gatta, potreste radere anche lei?» Per tutta risposta a tale impertinenza, tirai uno stivale addosso a quel mascalzone. E poco dopo ero a colazione con i miei amici giù nel soggiorno. Vi trovai un'accoglienza calorosa e anche la stessa tovaglia della sera prima, riconoscibile dal segno nero del piatto di stufato irlandese e dell'impronta di un boccale di birra bevuto a cena. Il padrone di casa mi salutò con grande cordialità. La signora Fitzsimons disse che con tanta eleganza avrei fatto la mia figura a Phoenix Park e, a onor del vero, posso dire, senza vanità, che non mancavano a Dublino uomini più brutti di me. Non avevo ancora il possente torace e la robusta corporatura che avrei acquisito più tardi, per scambiarle infine, ahimè, con gambe gottose e groppi alle nocchie, ma così accade ai mortali. Però ero quasi arrivato alla mia attuale statura di 6 piedi, e con i capelli ricciuti, la camicia con un elegante jabot e i polsini merlettati e un gilet di velluto rosso con alamari d'oro, sembravo proprio il gentiluomo che ero. Sopra portavo una giacca di lana grigia con bottoni piatti di metallo, che ormai mi stava piccola. Mi trovai d'accordo con il capitano Fitzsimons che dovevo al più presto far visita al suo sarto per farmi fare una giacca della mia taglia. «Non occorre che vi chieda se il vostro letto fosse comodo», disse. «Il giovane Fred Pimpleton, il secondo figlio di Lord Pimpleton, ci ha dormito per i 7 mesi in cui mi ha fatto l'onore di essere mio ospite, e se lui era soddisfatto, non so chi potrebbe non esserlo». Dopo colazione uscimmo a visitare la città e per via Mr. Fitzsimons mi presentò a molte sue conoscenze come il giovane Mr. Redmond della contea di Waterford, suo intimo amico. Mi presentò anche al suo cappellaio e al suo sarto come un giovane di belle speranze e di ampi mezzi. Al sarto dissi che l'avrei pagato in contanti solo per una giacca che mi stava a pennello, ma lui volle ad ogni costo farmene diverse, e io non stetti a protestare. Anche il capitano, che certo aveva un gran bisogno di rinnovare il suo guardaroba, scelse un'elegante giubba alla militare e disse al sarto di mandargliela a domicilio. Poi tornammo a casa dalla signora Fitzsimons, che ci portò in carrozza con lei a Phoenix Park. Era giorno di rivista. Il parco era pieno di giovani di buona famiglia che ronzavano intorno alla signora e lei mi presentò a tutti come il suo salvatore del giorno prima. Per dirla tutta, il suo resoconto era tanto lusinghiero che in capo a mezz'ora ero considerato da tutti un giovane gentiluomo della più nobile famiglia d'Irlanda, cugino del capitano ed erede di un patrimonio di 10.000 sterline l'anno. Fitzsimons disse di aver esplorato a cavallo ogni angolo delle mie terre. E diamine, visto che gli andava di raccontare queste frottole per conto mio, lo lasciai fare. Anzi, ero più che contento, come accade ai giovani, di venir tenuto in gran conto e passare per un personaggio famoso. Non avevo ancora capito che ero andato a finire in una congrega di impostori, che il capitano Fitzsimons era solo un avventuriero e la sua signora una persona di nessun credito. Ma sono proprio questi i pericoli che la gioventù sempre corre. Il mio caso serve almeno a mettere in guardia i giovanotti di oggi. Non sto comunque a descrivere in dettaglio la mia vita a Dublino, piena di fatti spiacevoli e di poco interesse per chiunque, tranne me, che purtroppo c'ero proprio in mezzo, è popolata di compagnie decisamente sconvenienti per una persona d'alta condizione come ero io. Il fatto è che un giovanotto non avrebbe potuto capitare in mani peggiori di quelle in cui io ero caduto. Anni dopo ho visitato il Donegal, ma non ho mai visto il famoso castello di Fitzsimonsburg, che del resto è sconosciuto anche ai più vecchi abitanti della contea. La coppia che mi aveva calappiato era di un genere allora molto più comune che oggi, perché le grandi guerre degli ultimi tempi hanno reso molto difficile per lacchè e parassiti dell'aristocrazia. Era stata questa, in origine, la condizione del capitano Fitzsimons di assicurarsi un grado militare. Se avessi conosciuto il passato del capitano, naturalmente avrei voluto morire piuttosto che avere a che fare con lui. Ma in quei giorni ingenui della mia giovinezza, presi le sue storie per oro colato e mi parve una bella fortuna di trovarmi proprio all'inizio della mia vita, subito introdotto in una famiglia simile. Il capitano era stato uomo di fiducia di un gentiluomo e la sua signora non era di rango più alto. La società che questa illustre coppia frequentava era ordinaria come loro, e gli amici dei Fitzsimons erano sempre i benvenuti alla loro tavola, dietro pagamento di una modesta somma per la cena. Dopo cena, state pur certi che le carte non mancavano e che la compagnia non giocava solo per diletto. A queste festicciole veniva gente di ogni razza, giovani libertini dei reggimenti acquartierati a Dublino, giovanotti impiegati al castello, uomini di mondo che si facevano belli per la città, sfianca cavalli, svuota bicchieri, pesta poliziotti, come ce n'erano allora a Dublino più che in qualsiasi altra città d'Europa che io conosca. Non ho mai visto giovanotti che riuscissero a sembrare tanto eleganti e distinti con così pochi quattrini. Eppure non ne ho mai conosciuti di giovani gentiluomini tanto dotati di ciò che chiamerei la vocazione dell'ozio. Mentre un inglese con 50 guinee all'anno in pratica non può fare molto di più che morire di fame e sfiancarsi come uno schiavo in qualche professione, un giovane damerino irlandese con la stessa somma manterrà i cavalli, si berrà la sua bottiglia e vivrà ozioso come un lord. C'era lì un dottore senza mai un paziente, affiatatissimo con un avvocato senza mai un cliente. Nessuno dei due possedeva una sola guinea, ma ciascuno aveva un buon cavallo per girare nel parco e portava il più bell'abito che ci sia. Un pastore privo di mezzi, ma appassionato di caccia e di ippica. Molti giovani mercanti di vino che consumavano più vino di quanto ne avessero o vendessero, e altri personaggi di questo genere. Ecco chi frequentava la casa in cui per mia sfortuna ero andato a finire. Che poteva capitare a mescolarsi con quella gente, se non disgrazie? E non ho parlato delle signore della compagnia, che forse erano anche peggio degli uomini. E in breve tempo, anzi brevissimo, divenni la loro preda. Quanto alle mie povere 20 guinee, dopo 3 giorni scoprì con terrore che si erano ridotte a 8. I teatri e le taverne avevano già fatto crudeli incursioni nel mio portafogli. È vero che avevo perso un altro paio di monete al tavolo da gioco, ma visto che tutti gli altri giocavano sulla parola e rilasciavano delle cambiali, naturalmente avevo preferito ricorrere anche io a quella forma di rimborso piuttosto che ai contanti. Quando perdevo, firmavo un pagherò. Con i sarti, i sellai e gli altri bottegai impiegavo lo stesso metodo, e fino allora la presentazione di Mr. Fitzsimons mi dava buon gioco. I commercianti lo presero in parola riguardo alla mia fortuna e per qualche tempo mi rifornirono di qualsiasi cosa mi andasse di ordinare. Alla fine, essendo a corto di contanti, fui costretto a impegnare alcuni abiti che mi aveva fatto il sarto. Non avevo certo intenzione di separarmi dalla mia giumenta, che cavalcavo ogni giorno nel parco e che mi era cara perché me l'aveva donata il mio stimatissimo zio. Qualche altro soldo lo ricavai da alcuni ninnoli comprati da un gioielliere che aveva insistito per farmi credito, e così fui in grado di salvare le apparenze, ancora per un po'. Chiesi più volte all'ufficio postale se c'erano lettere per Mr. Redmond, ma non era arrivata nessuna. Devo dire che mi sentivo sollevato ogni volta che mi giungeva quel no. Non ero certo ansioso che mia madre venisse a conoscenza delle mie azioni, data la vita sfrenata che facevo a Dublino. Ma non poteva durare a lungo. Esauriti completamente i contanti, feci una seconda visita al sarto per farmi fare altri vestiti e quell'impudente bofonchiò, nicchiò e alla fine ebbe il coraggio di chiedermi il pagamento di quelli già forniti. Gli dissi in faccia che non l'avrei più considerato il mio fornitore di fiducia e me ne andai via, difilato. Ma anche l'orefice, furfante di un giudeo, rifiutò di lasciarmi prendere una catena d'oro che mi piaceva molto. E ora, per la prima volta, sentii una certa perplessità. Per giunta, uno dei giovani gentiluomini che frequentavano quella sorta di pensione tenuta dai Fitzsimons aveva avuto da me una cambiale per 18 sterline. Le avevo perdute a picchetto e, avendo lui stesso un debito con Miss Carbin, lo stalliere, l'aveva trasferita a suo nome. Immaginate la mia rabbia e il mio stupore quando, andando a prendere la cavalla, scoprì che Carbin si rifiutava assolutamente di farlo uscire dalla stalla finché non avessi pagato il dovuto. Invano gli offrì la scelta tra quattro cambiali che avevo in tasca, una di Fitzsimons da 20 sterline, un'altra del consigliere Mulligan e così via. Quel Carbin a ciascuna di esse scuoteva la testa ridendo e poi disse: «Lasciate che ve lo dica, Master Redmond. Voi mi sembrate un giovanotto di buona famiglia e di ampi mezzi, e permettete che vi dica all'orecchio che siete caduto in pessime mani. Quella è una vera e propria banda di truffatori, e un gentiluomo del vostro rango, del vostro valore, non dovrebbe mai farsi vedere in simile compagnia. Andate a casa, fate le valigie, pagatemi questa sciocchezzuola, montate sulla vostra cavalla e tornatevene dai vostri genitori. Non potete fare di meglio.» Ero andato davvero a cacciarmi in un bel nido di farabutti. Sembrava che tutte le disgrazie dovessero precipitarmi addosso insieme. Tornato a casa, stavo rientrando tutto sconsolato in camera mia, quando mi ritrovai davanti il capitano e sua moglie, la mia valigia aperta, i miei vestiti buttati a terra e le mie chiavi in mano a quell'odioso Fitzsimons. «Chi ho dunque alloggiato in questa casa?» urlò mentre entravo. «Chi siete, signor mio bello?» «Signor mio bello! Signore!» dissi io. «Sono un gentiluomo e non da meno di nessun altro in Irlanda!» «Siete un imbroglione, giovanotto, un intrigante, un impostore!» gridò il capitano. «Ripetete queste parole e vi passo a fil di spada!» risposi. «Boom! So tirare di scherma bene quanto voi, Mr. Redmond Barry. Ah, cambiate colore ora, eh? Il vostro segreto è stato svelato, eh? Scivolate come una vipera nel seno delle famiglie innocenti. Vi presentate come l'erede dei miei amici Redmond di Castle Redmond. Io vi faccio conoscere ai nobili, alla buona società di questa metropoli. Vi porto dai miei fornitori che vi fanno credito. E che cosa scopro? Che avete impegnato la merce presa nei loro negozi. Ho lasciato loro delle cambiali, signore, disse in tono dignitoso. Sotto quale nome, disgraziato ragazzo? Sotto quale nome? Strillò la signora Fitzsimons. E allora ricordai d'un tratto che avevo firmato i documenti come Barry Redmond e non come Redmond Barry. Ma che altro potevo fare? Non mi aveva detto mia madre di non apparire sotto altro nome che quello. Intanto Mr. Fitzsimons mi rovesciava addosso una piazzata furiosa. Parlò della scoperta fatale del mio vero nome ricamato sulla biancheria, parlò del suo affetto fiducioso, ma così mal riposto parlò della vergogna che avrebbe provato a incontrare i suoi eleganti amici e confessare che aveva dato ospitalità a un truffatore. Poi raccolse la biancheria, gli articoli da toiletto in argento e tutto il resto della mia roba, dicendo che sarebbe subito uscito a chiamare una guardia per consegnarmi alla giusta vendetta della legge. Durante la prima parte del suo discorso, il pensiero dell'imprudenza commessa e della brutta situazione in cui mi trovavo mi aveva lasciato sbalordito e confuso, perciò non avevo detto una sola parola in risposta ai suoi insulti, rimanendogli davanti muto come un pesce. Ma ora, sentendomi in pericolo, mi rimisi subito in azione. «Ascoltate bene, Mr. Fitzsimons», dissi. «Vi dirò perché sono stato obbligato a nascondere il mio nome, che è Barry, ed è il miglior nome d'Irlanda. L'ho cambiato, signore, perché il giorno prima di venire a Dublino ho ucciso un uomo in un duello all'ultimo sangue. Un inglese, signore, un capitano al servizio di Sua Maestà, e se voi ora vi dite pronto a consegnarmi o a ostacolarmi in qualunque modo, sappiate che lo stesso braccio che l'ha ammazzato è altrettanto pronto a punirvi. E allora, per Dio, signore, uno di noi due non uscirà vivo da questa stanza». A queste parole feci balenare la spada come un fulmine e gridando «Ah! Ah!» e pestando forte sul pavimento, la cacciai a un dito dal cuore di Fitzsimons, che fece un salto indietro e diventò pallido come un morto, mentre sua moglie, con un grido, si gettava fra noi due. «Carissimo Redmond!» esclamò. «Calmatevi, Fitzsimons! Non vorrete il sangue di questo povero ragazzo! Lasciatelo fuggire, in nome del cielo! Lasciatelo andare!» «Può andare a impiccarsi per quel che mi riguarda», disse Fitzsimons cupo. «E sarà anche meglio che se ne vada in fretta, visto che il gioielliere e il sarto sono già passati una volta e presto saranno di ritorno. È stato Moses, quello del banco dei pegni, a spifferare tutto. Le notizie le ho avute da lui». Dal che concludo che Fitzsimons aveva già impegnato la giubba nuova di merletto che aveva preso dal sarto il giorno in cui questi mi aveva fatto credito per la prima volta. Come andò a finire la nostra conversazione? Dove avrebbe trovato rifugio ora il discendente dei Barry? La casa di mia madre mi era sbarrata per l'incidente del duello. Da Dublino mi cacciava una persecuzione dovuta, lo ammetto, alla mia stessa imprudenza. Non avevo tempo per fermarmi a scegliere una direzione e non c'erano luoghi sicuri verso cui fuggire. Fitzsimons, dopo avermi insultato a quel modo, uscì dalla stanza brontolando, ma senza inimicizie. Sua moglie aveva insistito a farci stringere la mano e lui promise di non procurarmi fastidi. In realtà io non dovevo nulla a quell'individuo. Avevo anzi in tasca la sua cambiale per una somma persa al gioco. Quanto alla mia amica, la signora Fitzsimons sedette sul letto e scoppiò in un mare di lacrime. Aveva i suoi difetti, ma era di animo gentile. E anche se possedeva in tutto e per tutto 3 scellini più 4 penny di rame, la poverina me li fece accettare prima che partissi. Per andare dove? Ormai mi ero deciso. In città c'era una quantità di centri di arruolamento in cerca di uomini che volessero unirsi alle nostre coraggiose truppe in America e in Germania. Sapevo dove trovarne uno, essendo amico di un sergente che mi ero trovato accanto a una rivista a Phoenix Park. Mi aveva indicato i personaggi più in vista e per questo gli avevo poi offerto da bere. Lasciai uno dei miei scellini a Sullivan, il maggiordomo dei Fitzsimons, e correndo in strada mi affrettai verso la piccola birreria dove era quartierato il mio amico. 10 minuti dopo mi ero arruolato al soldo di Sua Maestà. Dissi francamente al sergente che ero un giovane gentiluomo in difficoltà, che avevo ucciso un ufficiale in duello ed ero ansioso di lasciare il paese. Ma non c'era alcun bisogno che mi affannassi a fornire spiegazioni. In quel momento Re Giorgio aveva troppo bisogno di uomini per far caso alla loro provenienza. E un tipo della mia statura, disse il sergente, era sempre il benvenuto. Anzi, aggiunse, non avrei potuto scegliere un momento migliore. Un trasporto era alla fonda di Dunleary, in attesa del primo vento, e a bordo di quella nave, che raggiunsi a passo di marcia la notte stessa, fece alcune scoperte sorprendenti, che saranno narrate nel prossimo capitolo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.